Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete. Beh, sicuramente ancora una volta al centro della puntata di questa settimana, vi ricordate, ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, dopo l'intervista ormai rimasta famosa del presidente della Camera, Laura Boldrini, a proposito degli insulti ricevuti in rete. Beh, torniamo su questo perché c'è stata, lo sapete anche questo ormai, una clamorosa uscita da Twitter, che è quella di Enrico Mentana, direttore del TG di La 7. Il tema è sempre quello, il linguaggio della rete, questa cultura dell'insulto che, secondo alcuni illustri giornalisti e illustri rappresentanti delle istituzioni, pervade un po' tutta la rete, un luogo dove teoricamente è tutto consentito. Naturalmente non è così, nel senso che noi possiamo scegliere chi seguire, che cosa fare, possiamo decidere di bloccare altri utenti, non è un luogo di anarchia totale come ogni tanto si pensa. Però insomma avremo modo di approfondire questo, ne parleremo con Pierluigi Battista, che ne ha scritto sul Corriere della Sera, e poi con Massimo Mantellini invece, che ne ha scritto sul suo blog, abbastanza critico verso le cose che ha letto sui grandi giornali, per così dire. Questa settimana poi, con gli amici di Voices from the Blogs, hanno realizzato per noi un rapporto, in questo caso su Andreotti. Qual è il giudizio degli italiani dopo, insomma, la morte del 7 volte presidente del Consiglio? Qual è il giudizio degli italiani che si trovano su Twitter su Andreotti? E lo sapete che emergerà qualcosina di interessante, una qualche sorpresa, se vi aspettate che il cosiddetto e inesistente popolo della rete massacri Andreotti? Ebbene, c'è qualcosa da rivedere. Italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Tra poco verremo alle questioni che vi ho annunciato in anteprima, ma naturalmente, come sempre, questo è il momento di fare un punto politico della settimana con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Il primo Consiglio dei Ministri non è andato benissimo, diciamo così, insomma, nel senso che si aspettava già un provvedimento subito, ma non è arrivato, arriverà probabilmente a metà del... Ci vuole qualche giorno. Come ti sembra la situazione? Molto semplicemente te lo chiedo. Ma insomma, mi sembra che occorreva dare subito un segnale un po' più forte. Invece, insomma, c'è un po' una differenza un po' troppo grande tra le attese suscitate da questa grande maggioranza, del modo in cui è stata creata, e poi, insomma, il ruolino di marcia. Siamo, per carità, proprio agli inizi, però non si ha la sensazione di una grande spinta, di una grande capacità propulsiva. Ecco, questo manca un po', anche questa idea della riunione nell'abbazia in Toscana può andare bene, per carità, non c'è niente di male, anzi, però dà l'idea, ecco, che addirittura bisogna riunirsi lì per trovare un po' di coesione. Ecco, non è un grandissimo segnale, secondo me. Nemmeno la riunione in abbazia a Spineto, nella Val d'Orcia, è un buon segnale, secondo te? Non è negativo, per l'amor del cielo, però dà l'idea un po' di una coalizione che ha bisogno di forti iniezioni, diciamo, di ricostituente. E per essere proprio all'inizio, ci si aspetterebbe qualcosa di più. Tu dici giustamente, la situazione è quella che è. Tu dici giustamente, se ha bisogno del ricostituente già appena praticamente varata la fiducia al governo, a due settimane dall'arrivo del governo. Sì. Comunque, speriamo. Senti, a proposito di questo, proprio a proposito della maggioranza, devo dire la verità che questa impressione, no, di scarsa coesione che forse ci si poteva attendere sembra confortata anche dai fatti politici di questa settimana, a partire dal voto per l'elezione, no, del presidente della commissione giustizia, che poi è appunto Francesco Nitto Palma, sulla quale il PD ha avuto molte perplessità. Nessuno di questi fatti è politicamente troppo grave. No, sono delle piccole cose che poi più o meno si risolvono, anche sull'IMU, sulla cassa integrazione, poi si tratta di trovare le risorse, si troverà. Su Nitto Paola alla fine è stato eletto comunque. Non c'è nulla che sia veramente corrosivo della coalizione, però al tempo stesso si ha l'impressione che, insomma, si sta insieme un po' faticosamente, ecco, questo. Quindi c'è un grande lavoro che Enrico Letta deve fare. Lui è molto ben intenzionato, ben determinato, ha la garanzia e la copertura, l'ombrello aperto del Presidente della Repubblica. Ecco, speriamo che si vedano dei risultati nelle prossime settimane. Per adesso, appunto, si ha questa sensazione di una certa lentezza iniziale, mettiamola così. Dall'altra parte, restiamo su questa parte, perché tu citavi Letta, insomma, naturalmente i riflettori sono concentrati sul Partito Democratico, sono diretti sul Partito Democratico, alla scelta di questo reggente, comunque in una situazione, no, che continua ad essere di forte difficoltà e di forte disagio. Anche quel voto sul Presidente della Commissione Giustizia è un segnale di tutto questo, cioè c'è tutto un popolo, per così dire, del Partito Democratico che tutte queste scelte non le condivide. Partito Democratico è in uno stato di sostanziale anarchia, manca una guida, manca qualcuno che in forza di una sua autorità possa dire: guardate, abbiamo fatto un patto politico con il centrodestra, può piacere o non piacere, però l'abbiamo deciso perché maiora premunt, come si dice, cioè la situazione generale del paese imponeva questa alleanza, visto che non c'è un'alternativa, non c'era modo di fare una maggioranza diversa, e tornare alle urne sarebbe stato un errore gravissimo. Allora, si sono fatti i patti si rispettano. Mancando questa volontà forte, questo polso forte, ognuno va per i fatti suoi. E infatti il voto in commissione è il prodotto di una sostanziale una incapacità di mantenere una certa disciplina sulle cose importanti. Ora, non vorrei che si ripetesse questo via via sui vari provvedimenti che si presentano, perché questo sarebbe veramente grave. Insomma, la crisi del Partito Democratico non troverà certo una composizione oggi sarà già tanto, se non si creeranno conflitti profondi e mediaticamente molto pericolosi, diciamo. Ma io penso che sia indispensabile che il Partito Democratico si dia al più presto una guida forte. Il traghettatore, l'uomo della transizione, va bene per un periodo limitatissimo di tempo, ma ci vuole un congresso in cui si arrivi anche a una resa dei conti, ma in cui poi si esca con una linea politica forte e soprattutto con un gruppo dirigente ben intenzionato a farla rispettare. A proposito di giustizia, abbiamo parlato di commissione giustizia, ma naturalmente c'è anche una questione giustizia più in generale. Devo dire la verità, dal mio punto di vista, non so come la pensino i nostri ascoltatori e gli altri italiani, l'impressione fortissima è di vedere qualcosa di stantio, un film già visto, insomma, classicamente, sentenza di condanna per Silvio Berlusconi, il PDL che attacca i magistrati, la NM che risponde, il PDL che scende in piazza, diciamo la scenografia di questi ultimi 20 anni mi sembra, insomma, ben rappresentata. Detto ciò, sembra che la cosa sulla maggioranza non abbia avuto un grande impatto, anzi, no. L'idea di tenere slegate le due cose prevale. Alza, no? Anche nel PDL. La cosa in sé naturalmente è gravissima, perché per la prima volta Berlusconi è stato condannato anche in appello per reati molto gravi, quindi la cosa in sé esiste, certo, e l'effetto che fa, comunque lo si voglia giudicare, è profondamente inquietante. Però la differenza è che Berlusconi ha scelto di essere un sostegno dell'equilibrio politico che si è creato, di essere un sostenitore di questa grande alleanza. Lo fa naturalmente perché pensa che sia il modo migliore per tutelare se stesso e la sua parte politica, però lo sta facendo, non c'è dubbio. E addirittura queste larghe intese oggi, il paradosso è questo, che sono sostenute da un partito il cui capo è stato condannato in appello, su cui sono pendenti altri processi, però che riesce a tenere le sue truppe ben disciplinate e quindi è un puntello del governo, mentre dall'altra parte c'è un Partito Democratico, come abbiamo detto, frammentato, che è un oggettivo elemento di forte debolezza della coalizione. Questo è uno dei tanti paradossi italiani. Ultima domanda che ti voglio fare, Stefano, riguarda le riforme costituzionali. Ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, convenzione, non convenzione, alla fine questa convenzione per le riforme è saltata, si è deciso sostanzialmente, insomma, si è deciso di passare direttamente dal Parlamento. Secondo te gliela si fa oppure no stavolta? Le nostre conversazioni finiscono sempre con una domanda relativa a problemi che non si risolvono mai, no? Perché siamo andati così, avanti così, con la legge elettorale. No? Purtroppo è così, Stefano. Adesso abbiamo ripreso sul tema delle riforme istituzionali. Speriamo con esiti migliori. Ma insomma, la convenzione, insomma, se non si doveva fare, perché è stata lanciata con tanta determinazione apparente da Enrico Letta nel discorso programmatico? È un altro elemento di ambiguità, perché era meglio allora parlarne un po' meno e cercare di avviare, incardinare il discorso delle riforme direttamente in Parlamento, dove alla fine io penso che sia meglio, perché il problema non è lo strumento, l'assemblea, la convenzione, quelli sono strumenti. Il problema è se c'è in questa maggioranza così larga, eccetera, c'è la volontà politica di procedere con le riforme oppure no? Perché se c'è questa volontà, la Costituzione offre magnifici strumenti al Parlamento per procedere con le quattro letture necessarie e fare tutto quello che è necessario fare. Se invece non c'è la volontà, è inutile pensare che uno strumento tecnico, come può essere una convenzione, un'assemblea bicamerale, eccetera, possa sostituire quello che manca in termini di determinazione. Coltivo un'enorme quantità di dubbi sulla riuscita di tutta l'operazione riforme costituzionali. Poi siamo all'ultima domanda, appunto l'ultima domanda è quella dei dubbi. È quella dei dubbi. Detto ciò, speriamo. Grazie Stefano, anche ciao, per questa presto, settimana. Simone, ciao. Buona giornata. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo, come promesso in apertura di trasmissione, adesso con i nostri amici di Voices from the Blogs e con Luigi Curini, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Progetto, lo ricordiamo, dell'Università degli Studi di Milano, che analizza il sentimento della rete, in particolare il sentimento di Twitter, e che anche questa settimana in esclusiva per noi hanno realizzato un report su Andreotti. Qual è stata la percezione su Twitter di Andreotti? Beh, insomma, non sorprendente il fatto che sia stata negativa, ma insomma nemmeno così drammatico, Luigi, no? Sì, guarda, i due dati in assoluto più interessanti è che in primo luogo se ne è parlato tanto, noi abbiamo analizzato dal 6 all'8 maggio, ci sono stati più o meno 50.000 tweet che parlavano del Divo Giulio. In questo senso, in qualche modo, a conferma della presenza e della persistenza nell'immaginario italiano di un personaggio politico che ha svolto un ruolo cruciale nella storia politica italiana, ma il cui ultimo governo più o meno risale a quasi 25 anni fa. Comunque una sorta di persistenza importante di Andreotti. E dall'altra parte, l'altro aspetto ovviamente interessante era capire come se ne parlava in rete, oltre a parlarne tanto di Andreotti. E l'aspetto interessante è che complessivamente emerge una bocciatura di Andreotti e di quello che in qualche modo ha fatto nel corso della sua carriera politica, nel senso che 6 opinioni su 10 in qualche modo esprimono un parere negativo, tuttavia quelli che al contrario esprimono un sostegno, in qualche modo un apprezzamento per la figura di Giulio Andreotti, sono più o meno 1 su 4, il 25%, che potrebbe sembrare un dato tutto sommato molto basso, ma che in realtà non è così basso se lo confrontiamo con altri leader politici attuali che al momento stanno godendo di una popolarità in rete che è inferiore a quella di Giulio Andreotti. Giusto per fare due nomi che sono importanti, ad esempio abbiamo fatto un'analisi di più o meno una settimana fa, la popolarità in rete di Bersani era inferiore al 20%, quindi più o meno 5 punti, da questo punto di vista Andreotti si situa 5 punti sopra a Bersani e si situa anche sopra alla popolarità di Monti, mentre Berlusconi non è così lontano. Quindi complessivamente quello che possiamo dire è che sì, la rete boccia Andreotti, ma tutto sommato la figura dell'ex statista della DC non ne esce così male. Veniamo prima di tutto alle critiche, no? Al perché questi giudizi negativi. In realtà ci si concentra fondamentalmente su due aspetti, Luigi, no? L'accusa di mafia e poi una generica idea di oscurità, insomma, no? Una sorta, ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto anche la trasmissione, quando abbiamo fatto 9 in punto su Andreotti, come se fosse una sorta di anima nera della Repubblica. Sì, esattamente, guarda, questi sono i due punti che raccolgono in totale la quasi totalità, insomma più o meno tra l'85 e il 90% delle ragioni dietro a quando un utente di Twitter esprime un giudizio negativo su Andreotti. Innanzitutto, come dicevi, il collegamento in qualche modo i suoi processi per mafia, e dall'altro lato l'idea in qualche modo di Andreotti come una sorta di grande vecchio dietro a molti misteri della politica italiana, perlomeno soprattutto negli anni 70 ma anche all'inizio degli anni 80. Insomma, una sorta appunto di giudizio negativo che in qualche modo collega Andreotti alle pagine oscure della Repubblica Italiana, della Prima Repubblica Italiana. Mentre invece, che cos'è che piace, che ammesso che si possa dire piace, perché poi vedo che tra quelle che avete identificato come qualità, la principale è non peggiore di altri. E vabbè, questo non è proprio un complimento, insomma, naturalmente, però c'è anche qualcos'altro, no? Sì, guarda, sì, oltre appunto il punto che dicevi te, che tutto sommato alla fin fine Andreotti non era peggiore di altri atti politici del suo periodo. In generale gli apprezzamenti si concentrano su due aspetti, sulle sue qualità di politico e sulle sue qualità personali. Sulle qualità di politico si sottolinea in particolare il ruolo positivo che ha avuto nella politica estera, portato avanti quando svolgeva appunto un incarico politico come primo ministro, ma non solo, dei governi italiani. E dall'altra parte c'è anche un buon quarto di opinioni positive che in qualche modo considerano Andreotti uno statista, uno dei pochi della storia italiana. Dall'altra parte, per quanto riguarda invece le qualità personali, si sottolinea sicuramente due aspetti che in qualche modo si collegano sempre alla figura di Andreotti: il sarcasmo, ricordiamo tutti i suoi detti sferzanti che potevamo ben rappresentare in Twitter, perché funzionavano benissimo anche nel mondo pre-Twitter, funzionavano benissimo, e la sua astuzia. Questi in qualche modo sono gli aspetti che personali, delle qualità personali più legate ad Andreotti. Grazie anche per questa settimana, Luigi Curini. Naturalmente ci sentiamo la prossima. Alla prossima, trovate poi tutti i dettagli di questa ricerca sul nostro sito www.radio24.it. Vi ricordo anche il sito di Voices from the Blogs, www.voicesfromtheblogs.com. Comunque anche sul nostro sito, su radio24.it, metteremo il link. Grazie Luigi, buona giornata. Grazie. Ed ecco che adesso, mentre abbiamo visto, si era parlato quasi di vilipendio di cadaveri in merito ad Andreotti, mentre invece, come avete visto dalla ricerca che ha fatto Voices from the Blogs per noi, in realtà il cosiddetto giudizio della rete non è stato così negativo, noi parliamo invece di violenze, di parole violente in rete. È un tema di discussione che è già stato introdotto, come sapete, dalla Presidente della Camera Laura Boldrini venerdì scorso. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata di Voto Antonio, ne riparliamo oggi perché Enrico Mentana ha abbastanza clamorosamente deciso di uscire uscire da Twitter proprio per alcuni toni, insomma, alcuni insulti che ha trovato. Che ha trovato eccessivi. Io rimango convinto che il problema non sia il mezzo internet, ma sia un problema di cultura, evidentemente, oltre che poi anche di utilizzo, insomma, di come si usa questa rete. Comunque, adesso ne parliamo e saluto innanzitutto Pierluigi Battista del Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. E Massimo Mantellini, blogger. Buongiorno Massimo. Battista, iniziamo da qua perché ieri sul Corriere della Sera ha pubblicato un pezzo che si intitola "Se Twitter diventa la piazza dell'oltraggio, io voglio capire qual è appunto la linea di pensiero di Pierluigi Battista su questo tema qua". Ma insomma, io intanto dico che è un luogo volontario, quindi chi vuole stare dentro deve accettare le regole della casa, quindi cominciamo col dire che qualunque ipotesi di vincolo, di normativa stringente, di censura, eccetera, eccetera, io da liberale intransigente la ritengerei una fesseria oltre che una cosa liberticida. Quindi diciamo, questa è la premessa, perché sennò poi non si capisce. Sì, l'analisi poi è diversa dalle ricette che uno può avere, ecco, questo intendo dire. Io non penso che Twitter o il mezzo abbia creato chissà che. Penso che esiste, diciamo così, un fondo un po' torbido, diciamo, nella mentalità comune, che c'è sempre stata e che ha trovato un formidabile mezzo di espressione attraverso questo meraviglioso mezzo di espressione che è appunto il social network, in cui si fanno molte cose ottime, che apre le menti, che permette di allargare appunto un orizzonte, di vedere letture, film, musiche, di ascoltare opinioni, no? Cioè tutte queste cose qui. Però c'è questo però. Il però è che diciamo, si realizza attraverso questo mezzo quello che si è sempre sognato nei bar di periferia, diciamo così, e io a quello, se ce l'avessi davanti, gliene canterei di tutti i colori, gliene canto e lo massacro, gli dico quanto mi sta antipatico, quanto è odioso, quanto vorrei che morisse, quanto vorrei che soffrisse. Ecco, è arrivato un social network che dice: quello che tu pensavi che fosse impossibile diventa possibile. Questo è il punto, diciamo così, il carburante psicologico della cosa, per cui si scatena un'ira di Dio, quindi affiora qualcosa che già esisteva naturalmente. Si tratta di vedere se accettare questo gioco un po' al massacro oppure no. Naturalmente appunto Enrico Mentana, nella sua piena e ovvia libertà, ha deciso di non stare a questo gioco. Massimo Mantellini, tu come la vedi? Ma io sono molto d'accordo con molte delle cose che ha detto Battista. Quello che non condivido minimamente è la metafora del bar, nel senso che è stato detto spesso, ma gli strumenti di rete sono strumenti che in genere consentono molte opzioni. E quindi in relazione a questo sono strumenti personali, quindi Twitter può essere usato come un bar, ma mediamente assomiglia molto di più al salotto di casa nostra, se abbiamo intenzione di usarlo come va usato. Se questa metafora, forse più calzante, è vera, il tema è quello che dicevi tu prima, cioè un tema culturale di capire, all'interno di una serie di limiti molto grossi, perché non c'è il minimo dubbio che anche strumenti come Twitter, nel momento in cui i tuoi follower sono centinaia di migliaia, diventano difficili da utilizzare e molto probabilmente richiedono molto tempo, che spesso non abbiamo. Però mediamente la questione è che ci sono tutta una serie di strumenti tecnologici che uno può plasmare in maniera individuale, attraverso i quali il bar diventa il salotto di casa propria. E quindi sostanzialmente, molto banalmente, bloccare la gente che ti insulta, filtrare i contenuti in base anche ai tuoi interessi, insomma, non necessariamente, no, in base a che ti piaccia oppure no quello che scrivono. Questo è un po' il concetto. Sì, è la stessa cosa che succede normalmente con meno presidi tecnologici quando navighiamo sul web. Io non so nulla di Justin Bieber, anche se moltissimi adolescenti sanno Vita, Morte, Miracoli. È una questione di scelta. Naturalmente, insomma, come si imposta la propria vita digitale. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo. Vorrei sottoporti quest'idea, se possibile, Pierluigi Battista. Allora, io ho anche come l'idea che tutto quello che tu raccontavi prima, che trovo correttissimo, no? Questo mondo che si è tenuto dentro tantissime cose e che è esploso successivamente quando ha trovato la rete, perché ha trovato il contatto diretto con quelle persone alle quali sognava di dire adesso gliene dico quattro. Insomma, che tutto questo può darsi che dipenda in parte anche dall'altro mondo, il mondo per così dire dell'elite, dell'establishment, persino di noi giornalisti, che forse non ha saputo mantenere, in assenza dei social network, un canale di dialogo con questo mondo. E, come dire, la rete da questo punto di vista in realtà può essere proprio un canale di dialogo e di ricostruzione di un rapporto. Non lo so, è una, te la lancio così, però dimmi tu che ne pensi. No, io penso che non esistano concetti omogenei, quindi non esiste la rete, esistono tante persone che formano la rete e quindi non si può non prescindere dal fatto che esistano categorie diverse. Esistono categorie di insultatori professionali, cioè non è che si può usare un dialogo, la sua, diciamo, forma di dialogo è riempirti di improperi, di invettive, se sei una donna di dirti delle cose tremende sul piano sessuale, per lo più, se sei omosessuale di dirti delle cose tremende sul piano dell'omofobia, cioè stiamo parlando di questo, non è che stiamo parlando di una forma di dialogo, di recupero, stiamo parlando di una cosa da curva, da bar, non vogliamo, salotto io lo lascerei perdere perché insomma, bene o male, non è per il sapere la difesa dei salotti, ma stiamo parlando di rapporti tra sconosciuti, non stiamo parlando di rapporti tra persone che si scelgono, capito? E quindi questa è la cosa fondamentale. Allora, sicuramente c'è, ripeto, io bene e male inestricabili come io ho scritto, non è che social network è pieno di cose molto belle, c'è questo elemento qui che non è un elemento governabile, non è che si entri in dialogo con chi ti dice che sei un lecchino, un servo, un losco, il massimo dell'articolazione, diciamo così, è il pappanculo, cioè non c'è possibilità. Poi c'è tutta un'altra parte che allora sì, se vogliamo parlare della sfida all'establishment, all'elite, al fatto che non c'è più il monopolio dell'informazione dei media tradizionali, tutte cose che devono metterci in discussione, è la ragione per la quale tra l'altro io sto anche volentieri dentro Twitter, che tante cose insieme, però c'è questa, fortunatamente c'è questa funzione blocca, perché c'è qualcuno che non è che vuole entrare in interlocuzione con te, c'è qualcuno che vuole distruggerti. Sostanzialmente puoi essere un giornalista, un politico, un attore, l'importante è che abbia un minimo di, come, non di essere famoso e brutto, di essere qualcuno riconoscibile, e quindi l'anonimo che dice alla persona riconoscibile lo vuole massacrare. C'è qualcuno che questa cosa la ritiene insopportabile, giustamente molla gli ormeggi, non si vive tranquillamente senza tutte queste cose. Se uno vuole stare dentro, io per il momento ci sto. Il giorno che mi dovessi stufare, anche io penso che neanche farei questo annuncio, me ne vado, punto e basta. Punto e basta, insomma, smetti. Cioè, tra l'altro chi ha deciso di smettere, l'avevamo intervistato qualche tempo fa, chi ha deciso di smettere per altri motivi, perché stava diventando un impegno eccessivo rispetto al lavoro che faceva, Giuliano Cazzola del Pietralto, bellissima testa, adesso di Scelta Civica, prima del PDL, insomma, esperto di lavoro, che ha deciso di lasciare perché sostanzialmente non riusciva più a starci dietro. Un'ultima battuta a Massimo Mantellini, sempre, insomma, sempre su questo mondo, insomma, no? Che oggettivamente in rete c'è, insomma, non possiamo negare. Questo, guarda Simone, non c'è dubbio. Il problema non è tanto il punto di vista individuale di ciascuno di noi e anche la nostra, come dire, soglia di infastidimento possibile. Quella la lasciamo ognuno la propria. La questione è che dietro questi temi e dietro l'insistenza con cui questi temi vengono toccati con molta leggerezza, non mi riferisco tanto a Mentana quanto a, per esempio a tutte le dichiarazioni che sono state fatte nell'ultima settimana riguardo alle leggi del web e a questioni di questo tipo. Sì, penso poi soprattutto a quelle a caldo del Presidente del Senato, in realtà non del Presidente della Camera, no? Che diceva sì, delle leggi per il web dobbiamo farle, ma insomma. Sì, ma insomma voglio dire, tutti questi discorsi qui non possono secondo me essere affrontati così alla leggera, perché dietro questi temi, per esempio il tema classico è quello dell'anonimato, ci sono complessità e rischi molto seri. Quando il tema dell'anonimato è un tema importantissimo, è una bufala che gli utenti della rete siano anonimi. La metà delle persone che accedono a Facebook e usano Facebook per insultare le star della televisione o del cinema lo fanno da un telefono mobile, c'è il loro codice fiscale conficcato sopra al nickname. Cioè, voglio dire, dobbiamo stare attenti a fare in modo che i temi della libertà, che non sono solo della libertà della rete, ma della libertà della società, non vengano così facilmente messi in discussione. Grazie a Massimo Mantellini e per Luigi Battista per averci dato le loro opinioni su questi temi. Noi adesso, visto che si è parlato di possibilità di identificare, quindi anche di reati alla fin fine, cerchiamo di capire su che schemi sta cercando di lavorare la Polizia delle Comunicazioni, quella che un tempo si chiamava Polizia Postale. Io saluto Antonio Apruzzese, che è al comando della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno dottor Spezia. Allora, che cosa avete intenzione di fare da questo lato? Perché ho letto una cosa interessante, si parla di volanti su internet. È chiaro che no, è un modo di quasi di giocare con le parole, però ci spiega che piano avete? Guardi, allora, premesso che già da un po' di tempo la polizia ha un suo sito ufficiale, ha un suo sito che particolare che si chiama Commissariato DPS Online, sul quale insomma si può trovare la polizia così su un sito, avere dei contatti, informazioni, anche fare delle denunce. Però questo ci siamo accorti che non basta più. È cambiato il mondo, è cambiato il rapporto tra i cittadini della rete, i cittadini sono sempre più spesso sulla rete e abbiamo la sensazione che abbiano un sacco di problemi da porre e di cose da chiedere, e quindi tutta questa manovra è portata a creare tra breve, brevissimo, entro l'estate, un nuovo, chiamiamolo portale, che sarà un portale interattivo, cioè una presenza della polizia sulla rete, ma una presenza attiva, pronta al dialogo, non solo raccogliendo tutte le varie denunce, dando tutte le informazioni di carattere generalista, ma ad instaurare con i cittadini che ne sentono il bisogno proprio una sorta di dialogo sulle tematiche che riguardano proprio il web, l'utilizzo del web giusto o distorto, tutte le problematiche che vengono portate sulla rete, e in particolare per esempio farci comparire ad esempio sui social network, cosa fino ad oggi assolutamente inesistente, perché i social network sono diventati un luogo di frequentazione affollatissimo da parte di cittadini e soprattutto di ragazzi. Naturalmente, noi abbiamo parlato molto, come si diceva, di insulti online, di questo clima che alcuni dicono si respiri nella rete. Da quel lato c'è un'idea di azione attiva che voi potete mettere in campo, e gli strumenti quali sono adeguati? Perché come sa, insomma, in queste ore si è parlato di una legge, in realtà probabilmente potete agire già in base alla legge vigente in caso di minacce, no? E di ingiurie. Certo, guardi, il quadro normativo che sanziona queste condotte appunto illecite c'è. Ci sono una serie di reati del codice penale espressamente previsti ed esaustivi, cioè che coprono tutte le ipotesi che si creano e si generano. Va premesso che non è consentito diffamare le persone, offenderle o sparare improperi addosso alla gente senza logica. Questi sono fatti già perseguiti penalmente e continua ad esserlo. E quindi queste condotte portano poi a un interessamento dell'autorità giudiziaria e quindi eventualmente anche a condanne. La problematica per il web è un po' più complessa, perché il web è qualcosa di, per sua natura, non localizzabile, non è una realtà italiana, quindi necessariamente dobbiamo ricorrere ad altre autorità giudiziarie, all'intervento di altri stati. Questo rende delle volte un po' difficile procedere penalmente, ottenere cooperazione. Questo è il vero problema. E però si diceva nella parte precedente della trasmissione, che lei non ha potuto ascoltare, si diceva, beh, alla fine però se uno manda un insulto, una minaccia su un social network e lo fa in mobilità, come ormai spesso facciamo quasi tutti, no? Lo fa da un cellulare, beh, ragazzi, a quel cellulare c'è attaccato un codice fiscale, quindi insomma teoricamente l'identificazione del soggetto, per quanto si nasconda dietro un nickname, no, dietro un anonimato, teoricamente dovrebbe essere abbastanza semplice, no? Allora, attenzione, perché io non ho seguito bene, ripeto, la prima parte della trasmissione e non ho ben capito se parliamo di un messaggio di posta elettronica o di un messaggio... No, social. E quindi con un riferimento ad internet. Sì. Ecco, allora, parlando di riferimento ad internet, per poter trovare prove e andare a raccogliere contenuti, dobbiamo indispensabilmente riferirci a chi gestisce il social network. Ora, i social network al momento al 90% sono statunitensi, quindi è indispensabile seguire quella strada proprio in senso fisico, quindi passare attraverso Facebook, Twitter e quindi rivolgersi agli Stati Uniti d'America. Questo è molto interessante, quindi probabilmente bisognerà ragionare anche su questo in futuro. Noi intanto la ringraziamo, grazie per essere stato con noi, ad Antonio Apruzzese, appunto comandante della Polizia delle Comunicazioni. Buona giornata. Grazie a voi, grazie ancora. Grazie. E noi chiudiamo così questa trasmissione, questa puntata di Voto Antonio. Io ringrazio come sempre Alessandro Marco Tulli in redazione, Pietro Lacorte in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. I nostri contatti ormai li conoscete, c'è la pagina Facebook, naturalmente c'è il mio account Twitter Simone Spezia, oppure l'email votantonio@radio24.it. Ci sentiamo la settimana prossima per chi vuole, altrimenti lunedì con 9 in punto, come sempre. Italiani!